giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Chiamavano un po' il solista del Mitra perché tra l'altro ero musicista e avevo la mia piccola banda, non ero diciamo un burattinaio, sai, che muoveva tante corde all'epoca mafia, c'erano i miei tempi perché io ho quasi 70 anni, tra l'altro tengo a precisare, nel 56 il mio primo arresto me l'ha fatto il maggiore Alberto Della Chiesa. Parla così al microfono di Cristina Bassi, Luciano Lutring, il solista del Mitra. L'uomo che rapinava le banche e gli uffici postali con la sua arma nascosta in una custodia del violino. Sono gli anni 50, era Milano noir raccontata nei romanzi di Giorgio Scerbanenko. Vecchi bar dove la malavita parla in dialetto milanese e il balordo non spara, non uccide. La Milano della banda di Via Osoppo, dove i rapinatori cercano il colpo del secolo, 70 milioni di vecchie lire italiane che nel 1958 rappresentano una vera fortuna. Luciano Lutring nasce il 30 dicembre del 1937 a Trieste. I genitori si trasferiscono a Milano. In via Novara aprono una bar latteria. Il giovane Lutring prende a modello due cugini, Mario e Piero. Il primo è affiliato alla banda di Gino lo Zoppo, l'altro a quella di Dino il paracadutista. La scalata ai vertici della mala milanese giunge in modo graduale nel corso degli anni. Il racket delle macchinette mangia soldi, furti di motorini auto, rapine nei negozi e nelle banche. Arrivano gli anni 60, Milano è l'immagine della città moderna, europea, la grande metropoli del boom economico. Luciano Lutring, detto l'americano, diventa il solista del Mitra in Italia e il pericolo pubblico numero uno in Francia. Resta però un bandito, un po' romantico, che non uccide. Ero in concorrenza con Cavallero che quando veniva a Milano faceva disastri. E tra l'altro una volta, mentre noi verso le 12:30 siamo entrati in una banca per fare una rapina, il cassiere in una maniera alquanto desolata mi fa: ancora qua, arriviamo adesso? E lui mi fa: ci hanno appena rapinato un'ora e mezza fa, siamo qui senza soldi, abbiamo poco liquido. Cosa dovevo dire sto povero Cristo? E ci ho detto: lascia stare, voleva darci degli spiccioli, se mica lì a cercare la carità, cioè dovevamo fare il nostro lavoretto, tra virgolette. Ci ho detto: lascia stare, passeremo un'altra volta. Siamo andati avanti e abbiamo fatto una rapinetta veloce in un altro posto. Anche in Francia, a Parigi, ho avuto occasione, perché dopo ho lasciato l'Italia, perché Milano per me era divenuto un po' un cerchio molto stretto e prima o poi rischiavo di essere arrestato. Ho lasciato la Francia, sono andato a Parigi, ho compiuto diverse rapine con dei mazzi di rose, figurati te, i giornali dell'epoca parlavano bandito gentleman, raffa 300 milioni di gioielli o di preziosi e lascio un mazzo di rose per la commessa, cose romanticissime. Poi a Milano io frequentavo dei night, una volta mi è capitato addirittura una ballerina di regalargli una Ferrari, per un approccio d'amore ci ho regalato una Ferrari, il cuore c'era, purtroppo la Ferrari era rubata. La prima svolta della Milano criminale giunge nel 1967, la banda di Pietro Cavallero e Sante Nota Nicola ingaggiano uno scontro a fuoco con la polizia, 5 morti, 21 feriti. E la Milano in un calibro 9, quella raccontata nel celebre film di Carlo Lizzani. Cavallero e Notar Nicola, poi in carcere, parleranno di comunismo e di rivoluzione. Quelli che sentirete sono alcuni testimoni di quell'ottobre milanese del 1967. Vedo una 1100 scura che va sulle rotaie del tram. Tutto ad un tratto vedo la 2006 Alfa e un'altra Giulia dietro. La 2006 la polizia. La polizia, sì. Ad un tratto i banditi si lateralmente tirano fuori due pistole e sparano all'impazzata. E ho visto appunto in un certo momento tutto il Mitra fuori della macchina che sparava, allora mi sono abbassato e ho fatto tempo di sguaiarmela. E poi mi è sorpassata prima la macchina dei ladri, insomma, prima che arrivasse la polizia, è arrivato questo colpo qui. Guardi, mi trovavo dentro quel caffè là, ho sentito questa sparatoria e sono corso fuori subito. Le macchine stavano passando ma non le ho intraviste. Ho soccorso il ragazzo lì, ma ho visto che non c'era niente da fare, l'ho assistito finché è arrivato l'auto Letiga, ha preso un colpo alla testa. anni 70 la seconda svolta. Cambiano gli interessi criminali, cavalli, bische clandestine, rapine e soprattutto eroina. È anche il periodo dei sequestri di persona, come ci ricorda Achille Serra, ai tempi capo della Mobile di Milano, attuale prefetto di Roma. Sequestri di persona che misero in ginocchio Milano. Furono gli anni delle grandi rapine, nessuno più andava in un ristorante, nessuno più andava al cinema. E furono gli anni dei bodyguard, gli anni in cui ciascun imprenditore non usciva di casa se non era con due guardie del corpo. Intanto la mafia di Luciano Liggio trova nel capoluogo milanese il luogo migliore e più sicuro per i loschi affari, ancora Achille Serra. Milano toccò con mano il fenomeno mafioso. Gerlando Alberti, Luciano Liggio, nascevano finanziarie come funghi in quegli anni, su cui si lavorò molto. Molte di queste risultarono legate a cosche mafiose. Ma quello che più colpì la gente negli anni 70 furono alcune bande locali, o quasi locali. Penso a Renato Vallanzasca. Cambiano i nomi della geografia criminale milanese, ai vecchi boss si sostituiscono nuovi nomi. Sono quelli di Francis Turatello, Angelo Ipaminonda, detto il Tebano, Renato Vallanzasca. Vallanzasca era certamente un criminale che tolse la vita a tanta gente, con le sue mani, attraverso la sua organizzazione. Ma era contemporaneamente un uomo intelligente, coraggioso, un leader. Io ebbi il primo contatto con lui nel 1972, se non ricordo male, lo sospettammo di una rapina, andammo a casa ma non trovammo assolutamente nulla che potesse provare questa rapina nel supermercato. E allora lui, già allora molto spavaldo, si tolse il Rolex d'oro, sfidò il giovane funzionario che ero io, disse: è tuo se riesci a incastrarmi. Beh, proprio in quel momento una colonna della squadra mobile di Milano di allora, che era il maresciallo Scuri, trovò in cucina dei pezzetti di carta che, raggruppati e messi in ordine, costituivano l'elenco delle buste paga del supermercato di via Monterosi. Arrestato più volte, Renato Vallanzasca riesce ad evadere e sfida la polizia come il giorno in cui chiama Radio Popolare di Milano e si fa intervistare da un giovane giornalista. Pronto? Come si chiama? Vallanzasca Renato. Quanti anni ha? 27. La sua banda sta incutendo terrore nella città di Milano. La gente ha paura e dice che siete una banda di droga. Ma è vero che lei può girare impunemente per Milano? Si sente isolato? No, nonostante quello che si dica, mi sento che la gente magari, se non mi dice quello che penso, solamente perché ho paura. E solo questo mi dà fastidio. Per il resto, no, diciamo che possiamo andare su parecchie voci. È una criminalità che si scopre e si rende visibile, come conferma lo scrittore Piero Colaprico. Innanzitutto era una Milano in cui il criminale ci teneva in qualche maniera o in qualche misura a essere riconosciuto. Esisteva un night, che era il Marocco, era non lontano dall'Arcivescovado, e lì era facile incontrare malavitosi di un certo rango che si presentavano con magari la pelliccia di visone, perché a quell'epoca gli uomini mettevano la pelliccia, magari lasciavano sul marciapiede delle macchine grosse, la famosa Cadillac di Turatello o o altre macchine, e gestivano i soldi all'inizio soprattutto delle bische piuttosto che della prostituzione eccetera, spendendolo e espandendo nella città. Quindi erano dei criminali che ci tenevano a mostrarsi, a dire: guardate, noi siamo questi, finché non ci beccate noi facciamo il nostro, voi poliziotti, che è perché anche i poliziotti frequentavano gli stessi night, si vedevano la sera, esisteva una specie di zona franca dopo una certa ora, se voi riuscite ad avere le prove per prenderci, prendeteci, altrimenti siamo tutti qui sulla stessa piazza. E alla fine chi in carcere come Renato Valanzasca, chi pentito come Angelo Epaminonda, chi ucciso in un penitenziario come Francis Turatello, come conclude a giallo e nero Achille Serra. Non l'ho mai capito se fu uno sgarro in carcere, se fu un conto da regolare della malavita milanese. Il modo con cui fu ucciso fu di una brutalità autentica, perché Pasquale Barra, se non erro, detto o animale, dopo averlo squartato gli mangiò le budella. E questo è un atto di sfregio che non si fa nel codice, non è previsto nel codice della malavita, se non per uno sgarro di forte spessore. Quale fosse non l'ho mai capito.